una bella sensazione perché ho sentito tutto quello che mi circondava. La prima volta che ho fatto 30 secondi di vacanza in una lezione scolastica. E boh? Non so. Vabbè, perché... L'acqua. La cosa più banale. È la cosa più preziosa. Beh, sì. Perché? Perché non la beviamo in maniera indispensabile per la nostra vita. È quello che ho sbagliato nella verifica di scienza. Altre sensazioni, che cosa avete provato? Oltre ad aver sentito il rumore, ma vi è venuta in mente qualche immagine? Sì! Di stare... Di essere in vacanza. Io sì, di stare al mare a Napoli con l'ombrellone lì che mi sta urlando.